Globetrotter 24 di Annarita D'Ambrosio e Valeria De Rosa. Ben ritrovati, una puntata tutta speciale per Globetrotter 24. Ben ritrovata Annarita. Ben ritrovata Valeria e gli ascoltatori. Una puntata tutta speciale per questo Natale, perché non dobbiamo mai perdere la curiosità, l'amore per il viaggio, viaggi anche brevi. E quindi in questa puntata speciale vi segnaliamo quattro destinazioni che abbiamo scelto per voi e che ci portano tutte ai mercatini di Natale. Valeria, allora io ti porto all'estero, ti porto non lontanissimo, ti porto in Francia, sì, proprio in Francia, senza alcuna paura, a visitare i mercatini di Colmar e di Strasburgo, che quest'anno sono più controllati, sono partiti con un po' di ritardo proprio per facilitare maggiori controlli, ma sono, ti assicuro, bellissimi. Pensa che parlando con Barbara Lovato dell'Ente per lo sviluppo del turismo francese, ho scoperto che il primo mercatino di Natale nel 14 secolo venne proprio localizzato in Alsazia e si chiamava Mercato di San Nicola. Sono nati proprio in Alsazia, è una regione che poi ha creduto anche molto a livello turistico di questi mercatini di Natale, e soprattutto potete visitare le due città principali che sono Strasburgo e Colmar. Colmar con uno spettacolo di suoni e luci che viene fatto alla sera, dove vengono illuminate varie parti della città e quindi è proprio si crea la magia del Natale, ma poi altra cosa importante è visitare i villaggi intorno a Strasburgo e a Colmar, che sono ancora più tipici e ancora più interessanti con tutte le decorazioni natalizie. Come dicevi tu, sono molto diffusi su tutto il territorio alsaziano e nelle varie destinazioni ci sono poi dei prodotti che vengono offerti diversi. Assolutamente, loro hanno creato un po' sette paesi del Natale, no? All'interno della regione Alsazia, che sono un po' le micro zone che si possono visitare, però io consiglio sempre di arrivare con appunto macchina, treno a Strasburgo e poi da lì muoversi, perché poi la cosa interessante anche per i ragazzi è che vengono fatti degli atelier proprio di preparazione delle decorazioni del Natale, vengono preparati questi dolci tipici alsaziani, comunque il Kugelhopf, dei dolci che si possono degustare proprio nel periodo natalizio, e poi sono molto suggestivi quello che è tutte le bancarelle vengono messe nella piazza principale di Strasburgo, nella piazza principale di Colmar, veramente un'atmosfera del Natale molto sentita. Ecco, Strasburgo ospita il Parlamento europeo, lo sappiamo, però ecco, raggiungerla non è semplicissimo. Quale mezzo di trasporto tu puoi consigliare? Il treno, l'auto? Perché il treno bisogna cambiare dall'Italia. Allora, sicuramente il metodo migliore è l'auto, perché diciamo dall'Italia effettivamente i collegamenti ci sono, ma come dicevi tu, il treno poi bisogna cambiare, per cui con l'auto, anche perché con l'auto ti permette poi di, come dire, addentrarti in tutti questi piccoli villaggi, comunque poi sul posto devi avere un'auto. Senti, un'ultima domanda, parliamo dei costi, non sono zone particolarmente costose, si riesce a fare un fine settimana insomma con dei costi anche contenuti? Assolutamente, c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo, io vi consiglio poi soprattutto di consultare il nostro sito internet, che è www.france.fr, dove potete vedere anche tutte le offerte dei mercatini di Natale in Alsazia, quindi è sicuramente una regione, come dire, a portata di mano, ma sia dal punto di vista della, come dire, raggiungere l'Alsazia, ma anche per quanto riguarda i prezzi, perché potete trovare 2 stelle, 3 stelle, comunque con delle tariffe molto interessanti. Anna, io invece voglio portarti dove forse mai penseresti di trovare un tipico mercatino di Natale. In Italia ti porto in Sicilia, perché quest'anno per la prima volta a Licata hanno voluto allestire un vero e proprio mercatino, chiamando a raccolta tutta la regione. Alla dottoressa Giuseppa Amato, che ne è la responsabile, ho chiesto com'è nata l'idea. Abbiamo un'amministrazione giovane che si è insediata nel mese di luglio e quindi vorrebbe portare tante innovazioni in questa piccola città sperduta del sud e vorrebbe appunto creare quei presupposti per far sì che possa essere un po' un fiore all'occhiello della Sicilia. E così parlando fra una chiacchierata e l'altra, è nato Sognando il Natale, l'evento appunto dei mercatini di Natale che abbiamo denominato in questa maniera, l'evento natalizio. Questo evento verrà organizzato nelle piazze del centro storico della nostra città, sarà dall'8 di dicembre all'8 di gennaio. Chi è stato invitato? Cioè chi ha dato la propria disponibilità per venire solo dalla Sicilia oppure avete avuto richieste da altre regioni? Allora, abbiamo contattato anche aziende di altre regioni, qualcuno verrà, ma per lo più, come lei ben capisce, sono della zona della Sicilia. Avete tentato magari anche con qualche regione del nord? No, questa volta come prima edizione non ci siamo spinti così tanto, perché già come dice lei è una cosa insolita, per cui vogliamo insomma tenere un pochino i piedi per terra e cominciare nelle prossime vicinanze, ecco. Oltre ai mercatini, avete previsto anche altre iniziative proprio nello spirito natalizio, comunque nello spirito dell'inverno che si associa molto all'area natalizia? Allora, intanto per le vie delle città, soprattutto nell'area fieristica, sarà un percorso di canti, melodie natalizie dei nostri zampognari e poi balli folcloristici. E poi in una piazza sempre centrale verrà fatta la pista di ghiaccio, un'idea che già 3 anni fa abbiamo già messo in essere. Quindi creare proprio quell'atmosfera di Natale. Anche se il clima non è solitamente nella nostra zona come su al nord. Mi diceva che questa è una cosa che avete già fatto della pista di pattinaggio. Sì, sì. Ha riscosso successo? Abbastanza, infatti abbiamo avuto molta gente delle zone limitrofe, però, perché ripeto non abbiamo molto pubblicizzato il tutto, però sì, ha avuto un grandissimo successo, perché lei può immaginare cosa vuol dire una pista di pattinaggio in una zona così calda come la nostra. Valeria, ma che bello, i mercatini in un clima si spera molto diverso dal nord Italia, no? Un mercatino al caldo. Sicuramente sarà un mercatino molto particolare, però come hai sentito nell'intervista ci sarà anche la pista di pattinaggio, quindi volendo si può approfittare anche di questa opportunità. Valeria, noi ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta... Globetrotter 24. Ben ritrovati, vi portiamo ancora in giro per mercatini di Natale perché l'industria del turismo deve andare avanti, destinazioni italiane, destinazioni estere. Valeria, io ti porto ancora poco lontano dall'Italia, ti porto in Svizzera, che è una meta molto consigliata soprattutto per le famiglie. In verità Francesca Rovati di Svizzera Turismo mi ha spiegato che ci sono veramente tantissime offerte, un po' per tutte le esigenze. Io però un viaggio con tuo figlio ti posso consigliare di farlo a Montreux, e visto che è la capitale del jazz ho scelto anche una musica per introdurre questa intervista, che è una versione molto particolare di Jingle Bell. In Svizzera praticamente ogni borgo fa festa per Natale, soprattutto magari nelle parti di cultura tedesca il Natale è proprio una festività sentita, per esempio tra colleghi, tra compagni di scuola ci si scambia dolcetti, biscottini di Natale e proprio le decorazioni natalizie spuntano un po' dappertutto. Sicuramente ci sono delle città che in questo eccellono, per esempio Zurigo, Losanna fanno proprio delle decorazioni decorazioni luminose, un loro marchio di fabbrica. 130 i mercatini che si possono contare in tutta la Svizzera, e mi ha incuriosito leggere che in alcuni cantoni iniziano in alcuni giorni, in altre in base alla liturgia protestante, no? Sì, esatto, la Svizzera, avendo 26 cantoni, ognuno che segue la tradizione o protestante o cattolica, c'è proprio un calendario molto variegato. Poi ci sono addirittura delle festività che vanno ricollegate un po' anche ai riti pagani, poi trasformati nei secoli in riti cristiani. Per esempio sul lago di Lucerna, a Küsnacht, c'è questa processione con delle persone vestite con delle mitre vescovili illuminate al loro interno, che appunto discende un po' dall'usanza di scacciare gli spiriti maligni, e invece oggi è diventata la festa del santo, del San Nicola. Ecco, ci sono, abbiamo detto, tantissimi mercatini, tantissime offerte, forse quello più per i bambini è quello di Montreux. Sì, Montreux diciamo che è proprio la meta per eccellenza per le famiglie, perché oltre ad avere 130 chalet lungo il lago, disposte proprio sul lago di Ginevra, ha questa località in montagna a 2000 metri che è Roche Denaille, dove viene allestito ogni anno il villaggio di Babbo Natale. Normalmente poi in questa stagione c'è la neve, per cui si ha proprio l'impressione di andare nella casa Natale di Babbo Natale, circondati da nevi, e poi anche se si ha la fortuna si possa anche vedere Stambecchi, insomma uno scenario molto suggestivo. Si va su con un trenino a cremagliera, perché in Svizzera non mancano mai i trenini, e si può incontrare proprio Babbo Natale travestito che dispensa consigli e dolcetti. Francesca, è difficile chiederti se tu sei legata ad un mercatino in particolare, però la domanda te la rigiro, cioè nel 2015 c'è un mercatino un po' particolare, cioè un'offerta un po' diversa, ce n'è qualcuno in particolare che vogliamo segnalare? Ma allora, a me piace molto, ma perché sono molto affezionata alla città, quello di Berna, perché Berna, vabbè, è la capitale, però ha questo centro storico chiuso al traffico di origine medievale, praticamente uno può girarlo tranquillamente, liberamente, ed è molto suggestiva l'atmosfera. Poi io sono un'appassionata di vin brûlé, e qui naturalmente si trova, e poi ci sono anche alcuni chalet dove si possono gustare le specialità al formaggio, e Berna è una zona che è vicina alle zone di produzione del formaggio, per cui la fondue per esempio è un'altra cosa che si può mangiare in questi mercatini. Senti, un'ultima domanda, quella relativa ai costi. Ho letto che ci sono delle offerte particolarmente vantaggiose per raggiungere i mercatini della Svizzera in treno, e poi anche per il soggiorno immagino ci saranno delle offerte speciali, perché sai, qualche ascoltatore può aver paura dei costi. Come ogni anno le Ferrovie Svizzere Trenitalia promuovono una tariffa scontata per viaggiare da Milano alle principali città svizzere, che come Berna, Basilea, Zurigo, Lucerna, Losanna, Montreux, per cui Milano per esempio Montreux costa 25 euro in seconda classe al posto che 80 euro, quindi una grossa scontistica. Per quanto riguarda l'alloggio, diciamo che soprattutto nelle città svizzere si trovano diverse soluzioni, appartamenti, hotel, per cui direi che si possono trovare delle soluzioni a partire da 50 euro a notte. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Anna, tu non ci crederai, ma la Svizzera è proprio la meta a cui abbiamo pensato per il prossimo anno. Come tu ben sai, io tutti gli anni porto il mio bambino ai mercatini di Natale, anche quest'anno siamo andati, siamo rientrati da poco, però il giro, il nostro classico giro è quello in Alto Adige, base a Bolzano, e da lì il giro dei 5 mercatini ufficiali del Sud Tirol. In piazza Walter ho incontrato Chiara Dal Castello, che è una delle responsabili del progetto. Il mercatino di Bolzano è nato 25 anni fa. I mercatini in Alto Adige sono 5 mercatini originali Alto Adige e Sud Tirol, sono appunto Bolzano, Merano, Brunico, Vipiteno e Bressanone. Ognuno di loro ha la propria particolarità, si differenziano anche per le offerte che danno, ma quello che li accomuna tutti quanti sicuramente è il fatto di essere dei mercatini autentici e di cercare il più possibile di far vedere all'ospite che viene bene quella che è il prodotto locale, sia dal punto di vista gastronomico che dal punto di vista anche dell'oggettistica che viene poi proposta e venduta. Se dovessi scegliere delle particolarità di questi 5 mercatini, cosa ci racconteresti? Potrei raccontare ad esempio, vabbè, il mercatino di Bolzano, questa particolarità che vedi laggiù, che è questo parco interno bellissimo con un albero centrale e delle palle rosse che sono state appese di dimensioni differenti e che sicuramente creano un'atmosfera natalizia che appena si varca la soglia appunto dell'ingresso di questo parco si percepisce tra tutte le luci, i profumi del Natale, i colori. Poi c'è il mercatino ad esempio di Merano, che è costituito lungo il fiume, quindi è un po' particolare perché segue proprio il corso del fiume ed è sicuramente una cosa molto suggestiva da vedere, ecco. Poi c'è il mercatino di Brunico, che ha come particolarità secondo me l'artigianato, nel senso che tendono molto a valorizzare gli artigiani locali. C'è anche una casetta in legno dove all'interno ci sono tutti questi artigiani che fanno vedere lavori fatti a mano, che possono essere con l'utilizzo del feltro oppure un vecchio telaio. C'è un signore che fa vedere come si utilizza un vecchio telaio, quindi è molto legato diciamo all'artigianato locale. Su Bressanone mi dice una cosa davvero particolare quest'anno, soprattutto per i bambini. Sì, soprattutto per i bambini, ma non solo, perché ho visto un sacco di adulti rimanere a bocca aperta di fronte a questo spettacolo che si chiama Il sogno di Soliman. È uno spettacolo di luci e musica e suoni ed è un video che viene proiettato sulle tre pareti del Palazzo Vescovile di Bressanone, che è un palazzo storico bellissimo nel centro della città. Ed è uno spettacolo che racconta la storia di Soliman, che è questo elefante realmente esistito intorno al 1550, che ha attraversato un viaggio dal Portogallo fino a Vienna e si è fermato 2 settimane a Bressanone. E quindi questo spettacolo di luci racconta proprio la storia di Soliman ed è veramente bellissimo, è una novità di quest'anno del mercatino di Bressanone e consiglio bambini ma anche adulti di andare a vederlo. Visto che i mercatini, diciamo quelli più ufficiali, sono 5, è stato previsto un collegamento? Perché poi insomma i chilometri che li separano non sono moltissimi, quindi è possibile vederli tutti e 5 in poco tempo. I 5 mercatini seguono un percorso che è appunto il percorso delle 5 stelle, che sono appunto i 5 mercatini, e grazie anche ai mezzi pubblici c'è la possibilità proprio di vederli tutti e 5. Ci sono delle agevolazioni attraverso delle card che vengono date al turista proprio per riuscire a vedere tutti e 5 i mercatini. Sempre dal punto di vista turistico, sono stati previsti anche dei pacchetti, perché diciamoci la verità, non è esattamente economico venire qui. Vengono sicuramente realizzati dei pacchetti non solo a Bolzano ma anche negli altri mercatini. Molto spesso sono legati sempre al discorso del trasporto, quindi ci sono ad esempio i treni austriaci, delle ferrovie austriache e tedesche, che danno delle agevolazioni diciamo per partenze da Verona, Bologna e Venezia. Altri come Brunico mettono invece a disposizione per un soggiorno minimo di 4 giorni la possibilità di andare poi fare una giornata sulla neve e ti scontano quindi lo ski pass ad esempio al Plan de Corones. Sì, è vero che diciamo non è proprio economico, però è anche vero che cercando, guardando, si trovano anche queste offerte che poi insomma se uno si organizza per tempo riesce anche a sfruttare, esatto. Valeria, credo che siamo riusciti a fornire comunque qualche dettaglio in più, qualche suggerimento in più ai nostri ascoltatori per realizzare qualche giorno di vacanza. Lo spero, me lo auguro, Anna, davvero tante le informazioni che abbiamo dato. Ahimè, io non sono stata all'estero, come ti dicevo vado sempre in Alto Adige e per quanto mi riguarda devo dire che ogni anno resto affascinata, soprattutto da alcuni, non tanto i mercatini, perché poi bene o male girandoli hanno aspetti simili, ma i posti che ospitano questi mercatini sono davvero molto molto belli, e d'inverno hanno un fascino tutto particolare. Il mio preferito, a questo punto lo devo dire perché veramente lo porto nel cuore, è Brunico, che secondo me è una località davvero fiabesca. Io accolgo il tuo invito, invitando, girandolo agli ascoltatori, che ringraziamo per essere stati con noi e ai quali auguriamo buone feste.